in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Cercheremo di farla sempre internazionale anche questa settimana, anche se sapete che il grande appuntamento politico di questa settimana è europeo, perché domani in Francia si vota per il secondo turno delle presidenziali e si saprà probabilmente già nelle prime ore della serata, perché abbiamo, se l'esperienza di due domeniche fa ci insegna qualcosa, è che comunque i francesi sono veloci a scrutinare, e quindi sapremo se, come indicano la maggior parte dei sondaggi, sarà Macron a diventare presidente della Francia o Marine Le Pen. Inutile appunto fare delle previsioni precise, anche se, come ho sentito ricordare spesso anche da Marco Mussanè qui ai microfoni di Radio 24, i sondaggisti francesi sono più affidabili, si sono dimostrati più affidabili di quelli di altri paesi, però e quindi per ora appunto il vantaggio di Macron c'è ed è anche molto solido. Comunque insomma vedremo domani. L'altra cosa invece che possiamo dire dei giornali francesi è che su Le Monde è apparsa questa indiscrezione: Macron avrebbe invitato tutti i ministri del governo Hollande, di cui lui faceva parte prima di staccarsi per creare appunto il suo movimento, il suo partito En Marche, e candidarsi all'Eliseo, li ha invitati tutti a guardare insieme i risultati delle elezioni. Questo scrive Le Monde. A proposito comunque di Marine Le Pen, che in ogni caso avrà un peso molto importante nella politica francese d'ora in poi, più forte di quanto l'avesse mai avuto. Poi tra l'altro ricordiamo che in giugno ci saranno le amministrative, che decideranno poi la vera composizione del Parlamento francese, al di là di chi sarà il presidente del paese. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi percentuale ottenga, è molto interessante capire questa figura di Marine Le Pen. E per esempio euroobserver.com, e trovate l'articolo tradotto su voxeurope.eu, ha fatto una lunga disamina dei legami tra Marine Le Pen e Vladimir Putin. E si legge in questo gustoso articolo, che appunto potete leggere su voxeurope.eu: su una parete del quartier generale di Marine Le Pen, nell'elegante ottavo arrondissement a Parigi, è appeso un dipinto bizzarro. Mostra la candidata di estrema destra alle elezioni presidenziali francesi col presidente russo e quello americano accanto a lei. Su uno sfondo nero in pieno stile sovietico, Marine Le Pen, Vladimir Putin e Donald Trump osservano un orizzonte comune. La candidata francese l'ha ricevuto in dono dall'attivista nazionalista russa Maria Katasonova, incontrata a Parigi qualche giorno prima di far visita a Putin a Mosca il 24 marzo. Ecco, sarebbero appunto molto stretti, ci sarebbe un'intesa consolidata anche da numerosi incontri degli ultimi mesi tra Marine Le Pen e Vladimir Putin, intesa che non c'è anche solo perché manca lo storico con Macron, anche perché appunto Macron, abbiamo detto, faceva parte del governo francese ma era ministro dell'economia, non degli esteri, quindi la sua frequentazione con Putin è inevitabilmente minore. Comunque anche in questo caso vedremo come nel caso di vittoria, e sappiamo che è una vittoria molto probabile di Macron, come si relazionerà con Vladimir Putin. A proposito di elezioni, molti giornali europei si sono occupati delle primarie del PD che si sono tenute domenica scorsa qui in Italia. Sappiamo ha vinto Matteo Renzi, anche se con una percentuale inferiore a quella delle ultime primarie, soprattutto con un numero di voti molto inferiori, anche perché molte meno persone sono andate a votare. Allora per esempio la Frankfurter Allgemeine Zeitung in Germania ha scritto: la vittoria di Matteo Renzi alle primarie conquista è importante, tanto che ne parliamo appunto anche noi, ne parlano i giornali tedeschi, e però cercando di analizzare le difficoltà di questo leader e comunque le tante differenze che ci sono adesso, lo sappiamo, rispetto a quando Matteo Renzi ebbe il primo mandato per guidare il paese. Il ritorno di Matteo Renzi alla guida del suo partito è solo un primo successo parziale, scrive la Faz in un commento intitolato "Renzi è di nuovo qui", e in questo articolo si sottolinea che Renzi non è più l'eroe smagliante che era cito testualmente, che era quando sostituì Enrico Letta. Le sue riforme non hanno portato la crescita sperata, disoccupazione con il conflitto dei sindacati sono stati presenti, hanno segnato anzi la sua esperienza governativa. Inoltre il voto, il 30% che lui non è riuscito a conquistare, mostra che comunque non tutto il partito è con lui e che la sinistra italiana è divisa. Addirittura la FAZ si spinge a dire che Paolo Gentiloni, l'attuale premier, sarebbe più amato di Renzi in questo momento. Anche la Süddeutsche Zeitung, ricordiamo, la Frankfurter Allgemeine Zeitung è un giornale conservatore, la Süddeutsche Zeitung è un giornale che è più vicino alle posizioni del centro-sinistra, e sulla Süddeutsche Zeitung appunto anche è stata data la notizia, e l'invito è che Renzi adesso riesca a unire il suo litigioso partito, anche qui cito testualmente, e però anche si mostri più paziente e umile, perché solo così ha una chance di tornare al potere. Infatti, sappiamo appunto, sono state le primarie del PD, quindi hanno scelto il segretario del Partito Democratico. Da qui a vedere chi sarà il candidato premier del centrosinistra alle prossime politiche, che a naturale scadenza della legislatura dovrebbero tenersi nel 2018, però si inizia a parlare magari di elezioni anticipate a ottobre. Di François Hollande su Le Monde vi ho detto, e invece su Le Monde ci si è occupati d'Italia per un altro motivo. La questione che abbiamo seguito, i colleghi di Radio 24 hanno seguito con grande attenzione qui durante tutta la settimana, è quella degli attacchi alle ONG. Sapete che a far un po' a iniziare questa discussione è stato da una parte sono stati da una parte alcuni magistrati, ripresi poi soprattutto da Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, esponente di punta del Movimento 5 Stelle, che ha sposato questa tesi, cioè, o comunque ha detto che bisogna fare completa trasparenza. E Le Monde ha titolato Italia, le ONG pro migranti sotto attacco. E si fa un rapido, appunto, una rapida storia di questa vicenda: le dichiarazioni dei magistrati, poi le dichiarazioni di Di Maio, poi quelle anche della Santa Sede, che ha cercato di chiarire che la posizione appunto della Santa Sede è di grande ammirazione per tutte le ONG che aiutano i migranti, e quello che dice Le Monde lapidario è che mentre gli sbarchi aumentano, le ONG sono accusate senza prove di legami con i trafficanti di uomini. Passiamo a un altro continente, l'America del Sud, perché come forse ripeto anche un po' noiosamente spesso quando faccio la rassegna stampa dei giornali italiani, il Venezuela, che è un paese in profondissima crisi, viene trattato così, sembrerebbe, quando c'è spazio. E quindi vi segnalo da Internazionale un articolo tradotto dal Miami Herald, un quotidiano di Miami, che si intitola Il Venezuela tra proteste, saccheggi e rapine. Le manifestazioni contro il governo di Nicolas Maduro vanno avanti da più di un mese, pensate. E negli scontri molti negozi sono stati assaltati e decine di persone hanno perso il lavoro. Quindi questo lo trovate sul numero di Internazionale in edicola da ieri. Sempre di problemi di cui così ci occupiamo tutti, me compresa, a intermittenza, c'è il Medio Oriente, la Palestina. E allora, sempre da Internazionale, vi segnalo un articolo apparso su un quotidiano in arabo, pubblicato nel Regno Unito, che si intitola La svolta di Hamas. Mi piacerebbe sapere quanti di noi sapevano di questa svolta, che comunque è una, secondo me, da registrare nel complesso processo di pace, o di guerra, forse sarebbe meglio dire, che insanguina il Medio Oriente. Hamas cerca nuova legittimità, titola questo quotidiano appunto panarabo. A 30 anni dalla sua nascita, il movimento di resistenza islamica ha pubblicato il 1 maggio una nuova carta in cui per la prima volta, pensate, accetta le frontiere del 1967 dello Stato palestinese. Il gruppo però continua a non riconoscere l'esistenza di Israele. Inoltre, a febbraio, Hamas aveva scelto come suo leader nella striscia di Gaza Yehya Sinwar, considerato un intransigente. Quindi, come vi dicevo, si tratta pur sempre appunto di un processo di pace lontano dal raggiungere un vero traguardo, però di queste notizie, soprattutto capire le posizioni di Hamas e sicuramente anche i palestinesi sono divisi al loro interno, però credo sia molto importante. Un'ultimissima segnalazione, sempre Grazia Internazionale, dal Los Angeles Times, che si è occupato di quella che viene definita la calma insolita al confine tra Messico e Stati Uniti. La retorica di Donald Trump sull'immigrazione ha fatto diminuire il numero di migranti, ma la tendenza potrebbe durare poco, visto il clima di violenza in America centrale. Sapete che ci sono tanti disordini, per esempio in Honduras, e il Messico è un paese comunque con grandissimi problemi al suo interno, legati soprattutto ai narcotrafficanti, e quindi, insomma, Grazia Internazionale che continua a darci queste finestre tratte dai giornali di altri paesi. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.